Strano pomeriggio che saluta e prende il giorno per mano, entra nei muri della televisione accesa, passa nei miei occhi e si aggiunge a queste ore che vanno, lente naviganti di una calma infinita attesa. Scende la sera con le sue luci offuscate, col suo vento alle porte, cala il sipario sopra tetti in marmo stremato, dopo il sole al mattino. Sussurra